servizio. Ehi, ciao Gianni, dimmi. Grosse per la pace, sempre per la pace, Grosse. Carabazzi, questo già lo puoi dire a forza, già. Ui, ui, ui. No, ma dimmi tu, sai cosa ha fatto? Dopo che gli abbiamo messo le staffe, ha preso le svizzate. Ma secondo te? Le ho svizzate, non ti riesco a capire io. Cosa ha fatto? Le staffe? Svizzate, le ha svizzate. Dice che si muovevano nel senso che se li giri in quel senso antiorario si svizzano, è normale, no? Le fa delle staffe, il tassello chimico, una volta che ne fa aderenza, crea una specie di filettatura sulla barra filettata. Se tu lo fai girare in senso antiorario la svitti e lui la svizzate. Allora invece secondo me non è convinto di quelle staffe e le vuole buttare fuori a tutti i costi. Le ha già prese nuove le staffe, per prese anche il tassello chimico nuovo. Adesso la persona si mi piazzano le gaffe come si deve. Ebbene, mi raccomando, non mi chiamare però. Sì, che ti chiamo, scusa, ti devo invitare a pranzo, scusa, eh. Oh, tu prima metti le staffe, dopodiché io vengo, mangio e me ne vado, ti faccio anche l'applauso. Grazie, caro, grazie. Mi sono tutto quanto imbruttato, ho lasciato gli ospiti a casa per venire a fare la cosa a te e dopodiché ti metti a svizzarlo. Le dita ti avrei messo dentro quei buchi col tassello chimico. Sì, una si è smollata lì sopra, cosa faccio? Senza svizzare, al momento me ne va all'interno, ma boh. Quando c'è la polvere, vogliono togliere la polvere. E invece se aveva lasciato la polvere dentro, Marco, hai capito? Una è ferma, è l'altra lì su che gli stavo facendo fuori. Infatti l'ho ripetuto, ma non vedo il pano, non è che ti sto dicendo niente a te, eccetera. L'abbiamo fatto anche di notte. Quando adesso ci c'è, al momento di piatto vedere quelle gaffe, come quella che c'era la cosa, Giuseppe, ci metto, mi capito. Faccio il foro, gioco con la polvere dentro e ci metto il tassello chimico, è fatto. È così, perché non è uscito il chimico, infatti, non è uscito il chimico. Secondo te stavo parlando la gaffa. E invece non è così, tu l'hai toccata, non ti piacevano perché volevi come quello di Giuseppe, perché sei geloso, geloso che ti vedano. Avanti Gianni Dottirru. Tu devi dovermi soffiare, fate entrare, ti sta la polvere nell'occhio. La prossima volta la faccio così, la prendo con un pennello, dopodiché gli dico apri, bravo bravo, apri. Guarda che l'acqua, è vero che c'è bisogno dell'acqua, ma sono il primo che l'ha detto, però lui non ha ceduto il tassello, cioè il chimico, lui ha proprio svizzato il tassello perché secondo lui non andava bene, perché erano troppo fini, perché come hai detto tu fin dall'inizio lo voleva diverso. Ecco, per leggere un'antenna da 2 kg al mese, secondo lui ci devono mettere tasselli da 20 mm, capito? Cosa se ne va? E comunque. Secondo me mi do tasselli che ti fai, quelli che fa il fabbro, che taglia il ferro alla fine, lo piega, lo gira e tu gli fai il buco e lo tasselli al muro con cemento. Quello non riesce mai, quindi sta ammazzo. Sai cosa avrebbe dovuto fare Pomponi? Avrebbe dovuto prendere un martello, mettere la mano con cui ha toccato le gaffe sul tavolino e prendersi una martellata. E dopodiché attaccare l'antenna e vedi che reggeva tutto. Ti ha fatto fare lavoro e poi te l'ha distrutto. Sicuro che non è così come dici tu. Cane morto. Adesso ti sento meglio già. Ma sta stai salientando, sì. Se sarà 1-3-1, rapido. Già va bene, già va bene. Io sto scendo con la Grand Prix. Con che antenna stai uscendo adesso, lì? Con la Grand Prix sto uscendo. Ah, la sto usando l'altra. E l'altra? Perché se l'ho usata faccio TVI di brutto. Fai TVI? Sì. Ma se mi chiede se TVI non si fa più, come lo fa tu? Se vedi qui te lo faccio vedere come faccio TVI con l'antenna del secondo canale che tira l'acqua. perché era mancava metà dei pezzi sopra, che ha controllato. Prima lo risalvavo perché era 1, 2, 3 e il resto della roba con la spina di pesce prendeva tutto in UHF. E invece c'è la fregatura, quindi si è messo un collante. Non dite che comparsi la sua antenna al miscelatore, perché si è trovato in colato. Ma se c'è Simone, ma le faccende di tutti i colori. Simone, dopodiché riprende. Adesso ho cazzotta. Sono schiaffi dall'alto verso il basso e pum, così a schiaffi in testa. Vabbè, grosso, oggi la si esce. Di, eccolo, c'è malagana, ma soprattutto un maltempo. Non so se hai visto, trova che ti ho vedo stasera. Sì, vabbè, ma se ti richiede un locale dove c'è musica. Quindi c'era, per dire, alla sera del Mediterraneo c'era un po' di cantanti. C'era la presentatrice, eccetera, eccetera, c'erano un sacco di cantanti, ma che mangiavo la pizza che potevi guardare lì. A me piace la musica dal vivo. Pare c'è una. Domani c'è una manifestazione a cui devo andare, che è al parco di Bunnari. C'è una manifestazione che si chiama la filiera corta e si paga 12 euro, ti danno da mangiare, ti danno una serie di cose molto buone, molto divertenti. Se ti va. Ma io ho un amico che fa il cuoco lì, quindi io lo so, perché ho c'è anche la festa della birra, ho fatto un sacco di roba lì, per attirare un po' la gente, va. Non so se abbiano pulito però la zona circostante, perché dice che c'è la verba parecchio alta. Non ho capito. Non so se abbiano pulito però la zona, perché c'era l'erba che era un po' alta. Ah, non lo so, ma questo non posso dire. Però un amico Luciano che fa il cuoco lì. Qualche volta l'ha fatto, ci ha avvisato, ci ha fatto tutti il giro, tutti quanti insieme. Allora domani ne vale la pena. Domani, se è una bella giornata, sono lì con un po' di persone. Ma allora di pranzo? Farò per 12 euro a consumazione. E cosa c'è come menù? E non lo so, questa non te lo so dire. Però aspetta, me lo stanno poi, mi dicono dalla regia, ora me lo porto, 2 secondi e te lo dico. Non ho toccato nemmeno, ho mangiato solo carne e buco. Grazie. occhi, vieni avanti. Le verdure sì, ma a me piacciono molto le bietole, le verdure cotte, pomodori, verdura verde, misti di verdura con anche con le, come si chiama? Ma la rucola. Queste verdure qua sì, ma non sono erbivoro, nel senso che le verdure mi servono per accompagnare la carne, ecco. Vabbè, confermo. No, a me piace anche il pensimonio, mi piacciono i cacciofi, il pensimonio e tutti, diciamo, tutte le verdure classiche con cui si accompagna la carne, che possono essere i finocchi, le carote, i ravanelli, va bene così. A me piacciono le cose. Aspetta, cos'è che mi sono perso la battuta alla storia dello spargliere, ma in avanti. Sì, a me piacciono le cozze. Con limone però. Anche con limone, già vabbè. Hai sentito lo sparviero in compagnia di Gianni Doppio Ru, un pomponio che si è sentato a causa schiaffi in bocca che sta prendendo, non si sa per quale motivo. Avanti Gianni per i saluti. Dai, mi fermo un attimo alle tutti che devo fare delle compere, secondo solo ci sentiamo. Ciao Claudio. Invece di tagliate, dai, mi fermo un attimino. È venuta la pulire in bocca. E beh, claro. Ciao a tutti. Ciao anche a Gianni, buonasera a tutti. Noi stavo ascoltando, ho fatto una battuta. Sto preparando, beh. Ci riusciamo a prendere una boccata d'aria. Non è la giornata ideale, ma poi mi sembra anche abbastanza romariato, quindi. No, boh, c'è un po' di voce rauca, ma non avevo tempo, sicuramente, c'avevo i sigaretti. E niente, siamo un po' così, stanco. Oggi una giornata, guarda, non ti dico lavoro. Proprio all'improvviso, prima c'era il sole, poi è iniziato a piovere, ci ho pizzicato facendo un lavoro e mi sono tutto bagnato. Vabbè, capita. È una giornata un po' strana. E comunque vedi, se ti riposi, domani vieni a questa giornata al parco di Bunari e ti diverti anche, forse. Al Bunari? Non so se hanno pulito. Era un mezzo mondezzaio. Non so se hanno pulito, se hanno messo a posto. Sì, mi hanno detto che c'era l'erba avanzata, comunque mi confermano che dovrebbe essere pulito. Non so, io ci ho lavorato per anni lì quando c'era la gestione idrica. Quando hanno fatto il parco, poi hanno lasciato tutto il mondezzaio, tutto il materiale che risulta dell'impresa, delle cose, hanno abbandonato tutto, sono dei bizzozzoni. E infatti secondo me lo stanno facendo queste manifestazioni più che altro per rilanciare la cosa, capito? Per rilanciare diciamo il parco stesso. Poi bisogna vedere se ce la fanno, perché come hai detto tu, se non puliscono la gente ci va una volta e si rende conto della situazione e non ci torna più. E comunque dai, per 15 euro non può valere anche la pena fare un salto, giusto per fare una domenica diversa, giusto per non stare a casa, che ogni volta che sto a casa buttato dal letto al divano sto peggio di quando faccio finta di lavorare, capito? Io sono lui, ma cosa fai d'altronde quando sei a casa? O stai al computer, o stai alla radio, o ti metti a fare, o stai sempre mangiando, dolci, biscotti, merendine, noccioline, quello e quell'altro. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Non lo so, purtroppo questi gai. E domani mattina scendo a trovare Giampaolo, che è uscito dall'ospedale, vado a fare una visita. L'avevo sentito per un attimo, però non era una questione cardiaca, poi mi sono sincerato, adesso non mi ricordo esattamente cosa avesse, però niente che riguardava, meno male, il cuore, capito? L'ho sentito forse un paio di giorni fa, è possibile, non so se... l'avevano rilasciato quasi subito dall'ospedale. Ma è uscito avanti ieri, sono fatto 20 giorni. È uscito avanti ieri. Allora sto sbagliando io, mi sembra che sentivo un paio di giorni fa, forse proprio avanti ieri, ma a dire la verità qualche giorno prima forse, allora sbagliando. Non ho capito tanto cos'è, scusa, è qua. C'è una che fa ciclette, là pare sempre la voce, non ho capito, ma la ciclette un po' facevo tutte e due fuori. Che credevo fosse uscito un attimino prima dall'ospedale, capito, che l'avessero rimesso un attimino prima. Settimana, così mi ha detto, adesso lo vanno scendo a trovarlo, poi io ho capito così, ho capito che avessi avuto qualcosa di molto importante, non lo so, adesso domani mattina mi dirà lui esattamente che cosa ha avuto, perché sinceramente non ci ho capito niente neanche io. Sicuramente si pensava avesse qualcosa al cuore, perché c'era dolori allo stomaco. Poi non ho capito bene realmente che cos'era, ma se non sbaglio me l'aveva detto, non ricordo se Luca o Sara, però capito, mi stavano dicendo, poi l'ho sentito lui, però aveva il mio troppo basso e alla fine siamo persi un attimino, perché ero in Vienna. Vabbè, infatti si è uscito, lo sento che l'ho fatto al telefono, che stia bene, sta riprendendo piano piano, adesso seguirà una terapia molto molto stretta, deve dimagrire, deve fare, quindi si deve tenere a regime e vediamo un po' cosa risolta fuori. Va bene, ma adesso ti lascio e mi preparo, se coincide ci sentiamo più tardi, altrimenti a domani sicuramente, lunedì e martedì sono a casa, mi dedicherò a fare alcune cosettine che ho lasciato indietro. E poi niente, mi riposo un paio di giorni perché sono stacco la spina, sto veramente diventando mezzo esaurito. Buon fine serata, saluta anche Chiara, anche da parte di Varia e di Anna, e ci aggiorniamo al limite o più tardi o domani a tutti, ok? Spero di aver cambiato al centro, salutami Varia e Anna. Ci sentiamo domani se coincide, dai. Buona serata. Ciao. Ciao, Alto, grazie anche a te. Attenzione, non ho poco bomba, se ne ascolti. Dimmi. Sto picchiando, ti stava? No, stavo parlando insieme a lei, a Simona. Ho avuto anche a Claudio, la parte mia. Ben ascoltato. È tutto. Ciao anche a te. Hai sentito, Clara, scusa un attimino, hai sentito cosa ha fatto lo scienziato? Ho capito lontanata, non sono così a fare quello, una volta che il chimico è tassellato ti puoi sedere sopra a me. Io ho tassellato due mensole qua a Foratino e mi siedo sopra, capito, non ci sono problemi. Quali sono i programmi della serata, Antonello? ma stasera. Parala. Niente. Non so dopo mi vado una televisione, non lo so. Anche perché non è che stiamo proprio bene. Capito, stamattina mi sono fatto tranquillo, dopo un'oretta mi è venuto questa cosa come se fossi... Che c'è presente tutto quando... non capogino. Come se fossi perdendo l'equilibrio, capito? Capito, capito. C'è un solo nome. Uno e uno solo. Anche l'altra volta, anche l'altro giorno me l'ha fatto. Prima è venuto questo panico forte e forte, avevo battuto con tanta. E poi sembravo... camminando sembravo uno sbronzo, sembravo senza essere, non capito. Componi, oh? Eia. Buonasera, Buonasera anche a lei. E allora, tutto bene? Sì, così, così. Scappa. Così. Cosa ti vuol dire? Allora, ma la... una cosa, tu lo vedi Rai 1, Rai 2, Rai 3, lo vedi? Io glielo vedo, deve prendere il ricevitore e andare nel menu e in pratica mettere i parametri di fabbrica, mettere in pratica quando fai, ti segna in italiano, in tedesco, eccetera, eccetera, mettere in tedesco, mi fai la ricerca e gli trova subito i programmi. Se ne metto scemo io ieri facendo così. Non ce la metto di farlo entrare. Allora l'unico metodo è quello. Capo. Va bene. Oh, Antone. Domani mattina a casa, sì. Se non se vado. Sto dicendo, se sei a casa, me lo ti porto un decore se me lo puoi riparare. Ah, sono a casa, non preoccuparti. Eia, c'è sempre il solito difetto, Antonè. Quel diolo famoso che mi avevi riparato per quei due che mi avevi già fatto, capito? Uno di quello si è crepato e lo devo piazzare in cucina e c'è nuovamente bruciato, non ho capito perché. Chissà che non ne ho, però non ne ho guardato di quei condensatori qua, mi aspetta lunedì che lo compro, perché non ne ho altri. L'avevo già controllato nella piazza, se ti ricordi bene, l'ultimo che è arrivato l'ho piazzato a te e non ce ne sono altri, quelli da 2200 microfarad 16 volt. Quanto costa, Antone, quel diolo? Lo sai? Non è un diodo, è un condensatore. Costa 50 centesimi, non di più. Vabbè, al limite lunedì, se non lavoro, lo compro e te lo porto a te, capito? Andiamo assieme lunedì, andiamo e lo compriamo e lo piazziamo quella roba lì, capito? E vabbè, facciamo così. Siamo imprevisti se non devi lavorare, Antone, se non ti crea casini a te, capito? Boh, non so se devo lavorare, la verità è lunedì mattina devo scendere la prima a Palazzo Rosa per prendere una carta, come si dice, quelle, non mi viene in mente il nome adesso, la tessera sanitaria che è stata sbarrita la mia madre. L'hanno portata lì a qualcosa, a Palazzo Rosa, devo andare a chiedere che fine ha fatto, se c'erano loro, boh, perché la segretaria del pronto soccorso dice che l'hanno spedita a Palazzo Rosa. Poi bisogna vedere dove cazzo, minuto dove cavolo mi mandano, boh. Lunedì? O quando devi andare? Lunedì? Lunedì mattina alle 9 vanno a Palazzo Rosa. Vabbè, se non devo fare niente io, ti posso anche accompagnare io, non ce n'è problema a Palazzo Rosa lunedì, 9 qualcosa, 9:30, vai. Ecco, te lo fa un prelievo anche da parte mia lì. Prelievo? Devo fare un prelievo, che se lo trovo il momento per andare, prelievo di sangue, fare tutta la fai a parte mia. Io pensavo prevo dal banco, ma... disango, visto che sto andando a fare la tua roba. No, no, meglio al banco, ma guarda, questo periodo prendevo il volo per andare a fare prelievi dal banco, ma... Ogni giorno c'era la pila. Sì, buonasera a tutti, comunque, là. Ciao Leoncino, ciao tutti gli altri amici, non so chi ci sia. Ciao Gianni, buonasera. E dove c'è l'altro video? Non ti ho più sentito. Non mi hai più sentito. Diciamo che non stavo più entrando, già perché no, mi stavo coricando abbastanza presto perché per essere, me l'ho riposato per il trabacco di domani, capito? Dunque, non stavo neanche uscendo, hai capito? No, non me ne frega niente, hai capito? Ho capito. Gatta, anda bene, Meda. Ma... così. Comunque, ci vediamo domani mattina, Antonè. Vengo a casa tua a farti una visita, capito? Cambio. Va bene, va bene. Avanti Antonio. Antonio, che aiuto, se non si mai niente. Ma mai, quando mai? Tu sei, ti stai ingrassando, sei come un porco. Sì. Ma l'hai fatto la domanda per il comune, per il verde? Esatto, no, non ho fatto la domanda per il verde, per niente. Perché c'era questa domanda per il comune, stanno assumendo a tempo determinato e dice che stavano cercando persone 6 mesi, capito, dunque per il comune. Io l'ho fatta, poi non so se mi chiamano o non mi chiamano, boh, vediamo un po'. Sì, ci vuole la patente, vogliono gente con la patente, capito? A prendere il baro. Sì, vabbè, io ce l'ho la patente, che discorsi ci sono. Sperando che mi chiamano, io mi auguro che mi chiamano, almeno quella persona là ce la mando. Più lontano già mai capito tu, capito Antonio? Sì, per il vento urbano devi andare d'accordo, devi andare alla Corte Santa Maria, c'è un ufficio, c'è, e lui ci lavora Gianfranco, e lui il coso del vento urbano, capito? E diciamo che lui è il controllore, come vuoi chiamare, il responsabile. E qua, papà. Vabbè, va, al limite se io riprendo la casa, dai. 5 minuti di bianco per me, dai. E dove sei, Leo? A casa. Ah, perché qua la brittella stavi arrivando forte, per quello te l'ho chiesto. Sono a casa, già, sono a casa. Sono arrivato adesso di accompagnare il bambino a casa della mia ex e vediamo un po'. Avanti. Buonasera, siete tre a tutti quanti, è Salvatore da questa parte. Buonasera, sono per ascoltato. Signor Grotte. Ciao Salvatore, scusatemi che sto prendendo la castagna, poi arrivo. Oh Grotte, si sente Fabrizio? Al telefono, baracchino, lui ci sta cercando Antonio Romeo 1, che me ne sono dimenticato stasera, me l'ha detto un paio di volte già. Me ne sono ricordato adesso. Salutoni a Alessio, Antonio e Gianni, buonasera a tutti. Ciao Salvatore, ben sentito, cordialità, cambio. Caro, finito questa sera? Finito, finito, il rientro a Domopac. Domopac. Alla gara. E allora, come ho fatto? Che te ne conta già? Qui, a dolore d'anno. sono stato praticamente una decina di giorni a contatto di gomito con dei colleghi che non brillavano in fatto di salute, e quindi secondo me ci si è un po' contagiati tutti quanti l'uno con l'altro, per cui c'ho lo stomaco che è una fucina di ribollii, e qui mi fermo. Vi siete gettati come rapi sul miele, quelli sono i fagioli. Ma scorrerci a tosse, questo di tutto si può consolidare la fabbrica da paraveretta. Ok, niente flautolenza. È proprio ce l'ho stato, sono a singhiozzi e rutti e quant'altro, scusate il termine. Però c'è proprio lo stomaco, come se non avessi digerito il pranzo di tre giorni. Non ho capito perché vi siete sovramodulati. Cosa ho detto già? Volete, ti sa il sapore di uovo sodo, l'ha fatto anche a me. Non so se di uovo, non ho idea, però proprio sono abbottato. Poi c'era un catarro che chiaramente molto viene ingoiato e mi ha un po' nauseato, e quindi passerà. Alessio, non si rende mutata. Adesso fa poco, cominciato a tirare da dietro. Vabbè, mi state sovramodulando, ho copiato. Come è detto Antonio? Dice in inglese che stai facendo mutare. In inglese stretto. Insomma, siccome tutto va a finire nello stomaco, bene o male delle conseguenze le si pagano. E tu, queste castagne, ma quanti chili te ne sei preparato? Chilo, ma la cosa assurda è che se vai a comprare la Cover, prendono a 5 euro per 2 chilo, e sono già nel sembra che le stiano vendendo la moto carne. Se invece vai alla Lidl, costano 2 euro al chilo, e sono buonissimo. Di urgenza c'è di mettere tutto questo, ecco. Ragazzi, scusa. No, c'erano le rotelline nel tocco col pollice, quando vado a cazzare il maestro. E quindi si muovono. Ora, anche se dovrebbe essere tranquillo. È una voce meravigliosa. Cosa hai detto già? Che io gli ho fatto assaggiare anche le castagne di Ustia, le ho portate da Ustia. Ma già cotte? La cosa è mia moglie, prima di andare a pescare gliel'ho fatta assaggiare. Che c'è di particolare? Perché non credo che a Ostia abbiano molti castagnetti. Vabbè, non è proprio Ostia, è montagna, dai. È di vicino a Ostia. Di particolare c'è che sono molto grandi e non c'è nessuna guasta. Quello di particolare. No, è vero, comunque, confermo, molto buone. Confermo anche il fatto che erano nel rapporto 3-1, anzi 4-1, devo dire la verità. Cioè, 4 buone e una da buttare? 4 se le ha mangiate lui e una me la dava a me. Ma bastardo, a me non mi piacevano nemmeno, figurati tu l'ha preso mangiare. E quindi se ti piacevano quanto gliene davi? Figurati. A un certo punto si stava morsicando anche le dita per mangiarsene in fondo. Ma ciccarona. Sto dicendo. A un certo punto si è morsicato anche le dita per mangiarsela in fretta, capito? Ho capito. Dai, facciamo girare anche il buon Alessio. Alessio, vieni avanti. Dimmi, sono qui. Ma c'era anche Giuseppe Leoncino. Sì, che c'è? Io sono arrivato, dai, mi sono detto cordialmente, se coincide ci sentiamo dopo. Che mandi, voglio battare. Grazie, io dopo mi guardo la partita, per cui non ci sarò. Stasera lo precetto io, la tele. Ah sì, la lascia perdere, questa è rotta, ci facciamo quattro chiacchiere, ciao. Ricordati sempre di usare sempre quel nome, quello famoso, ciao. Quello pezzo unico, farà la vostra invidia. Quindi quindi c'hai il, in pratica il frigorifero, e ti può permettere di tenere accese un paio di luci se ti va bene. Ma tu a che piano abiti all'ultimo? Sì, quindi tu dirai, siccome ci abbiamo più luce non c'è bisogno delle lampadine. Negativo, io adesso a fare degli scherzi, per ogni evenienza avevo acquistato un motogeneratore. Ricordo quando c'era stato un blackout, ma tipo se erano state 4-5 ore di blackout, a casa mia avevo attaccato il generatore su e la casa mia era l'unica illuminata del quartiere. Infatti veniva la gente a bussarmi la porta e diceva come mai lì c'è la cornetta, e gli ho detto c'è un santo in paradiso. Si sentiva che il motogeneratore stava facendo casino. La cosa che mi ha dato fastidio è stata il fatto che come tempistica per riuscire a cambiare la tipologia di contratto, perché siamo passati a Enel Energia, ci abbiamo messo quasi 2 anni, perché la prima volta caricando i dati mi hanno messo che invece di essere una Tamura era andato a Sassari. Il codice fiscale se ne sono fissati di quello che io gli ho dettato, l'hanno fatto ricalcolare al loro sistema, per cui mi avevano agganciato a uno di Torino. Morale della favola, il contratto non è mai andato avanti. Quando l'ho provato la seconda volta, circa 8 mesi dopo, è stata autocata la procedura, cosa mi dicono? Accidenti, no, non va avanti la procedura perché è ancora bloccato dal tentativo di chiusura del contratto precedente. Complimenti a Ponano. Dopodiché passa in pratica un altro anno e invece di mandarmi, di recapitarmi la corrispondenza qua dove abito, mi stavano cercando sulle colline perché hanno interpretato la mia via come zona. E quindi chiaramente mi stavano cercando da tutt'altra parte. Intelligenti, i solleciti hanno continuato a mandarmi nello stesso posto. Mi sono chiesti come mai, essendo diverso l'indirizzo rispetto all'ubicazione della fornitura elettrica, come mai gli stessero tornando indietro. Non mi hanno mai telefonato e alla fine ci siamo trovati con la riduzione che praticamente ti mette in ginocchio perché non ti permette di fare nulla. E ho passato la giornata di martedì in proteste, in telefonate, in fax, in solleciti per riequilibrarmi la fornitura, in quanto pur avendogli mandato il fax alle 11 del mattino con la copia della fattura pagata, loro hanno mandato la richiesta di riequilibrio della linea alle 6 di sera. Questo è come lavorano questi imbecilli. Infatti adesso non vedo l'ora che mi arrivi la seconda di fattura, dopodiché me ne vado via. Almeno gli dovresti perdonare per il primo errore che hanno fatto, e anzi per il primo errore che hanno fatto gli dovresti mandare anche una bottiglia per Natale, mentre invece per il resto io mi sono affidato a Edison e mi sto trovando benissimo. Infatti io ho guardato i valori di Sorgenia e sono già comunque migliori rispetto a questi di Enel Energia. Dovevo stamparmi la brochure informativa di Edison e tu mi stai già dicendo che ti stai trovando bene. Cattivo, benissimo, io sono passato da bollette dove pagavo 120 euro a bollette dove ne sto pagando 30, assurdo, Comunque ti stavo dicendo, per il cambio, per il coso della cosa di nascita, del luogo di nascita, io gli avrei mandato una bottiglia per Natale, si stavano nobilitando adesso, a parte gli scherzi. Allora, la bottiglia gliela avrei rotta in testa, se non la rompevo in testa gliela avrei fatta scomparire alla Silvan in un posto, perché è pazzesco che ci sia certa gente che lavori così male, incapaci all'ennesima potenza, anche perché registrano tutto, registrano le telefonate, ti avvisano che stanno registrando la telefonata, quindi possono anche andarsi a risentire le cose qualora avessero dei dubbi, e questo non lo fanno. Comunque, Edison number one, non per altro perché è chiarissima la bolletta, perché quando prendi la doppia faccia devi decidere solamente se fare un solo costo fra mattina e sera, oppure più la mattina o più la sera, o viceversa. Io mi sto trovando davvero molto molto bene. Io vi saluto, signori, mi ha chiamato a cena e ci sentiamo al limite più tardi, se possibile, se no le prossime. Ciao ciao, volenti per me, dai, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, Giuseppe, ci sentiamo. Buon tutto, buona cena. Aspetta, rilasciamo anche ad Alessio per i saluti a Giuseppe. Poi ti chiedo altre specifiche, Anto. A lei. Forse Alessio si è spostato. Anto, riprendi. Ma se mi dai due secondi, guarda, porto la bolletta della... Ce l'ho proprio qua. E mi puoi chiedere quello che vuoi, non c'è problema. Ok, aspetta. Come? Sì, tu che cosa hai scelto, quindi, una bioraria? Di Roger, pago, adesso non mi ricordo se 10 la mattina, 10 centesimi al kilowatt la mattina e 8 la sera. Sì, cappa, comunque figurati, la mia è già interrapportata a 16, no a 17 di partenza, quindi... Ma ti dico che per 15, aspetta, devo vedere un attimino, ne prendo una più chiara, che questa qua è quella ancora di passaggio fra l'una e l'altra, quindi non c'è esattamente il tutto. Ok, se hai la possibilità di dirmi la media mensile di chilowattora consumati. Ah. Sto guardando un attimino qua, mi devi chiedere tu, perché a dire la verità, per quanto sia abbastanza chiara, non riesco a leggerla. Allora, totale servizi vendita, totale servizi di rete, totale netto delle imposte, totale imposte imponibile. Aspetta, devo guardare un attimo. Sì, non andare a, prima dei costi, guarda il calcolo del kilowattora. Guarda il calcolo del kilowattora, ci sarà un periodo dal al. Guarda un pochettino se riesci a inquadrare un periodo mensile, per avere un'idea. Perché se non sappiamo quanti sono i kilowattora è inutile fare il discorso, capito? Kilowattora consumati o kilowattora di erogazione di potenza impegnata o potenza disponibile? I kilowattora consumati. Dice consumi fatturati, è possibile che siano questi? Beh, penso proprio di sì, visto che comunque dai consumi ne è scaturita poi la bolletta. Per sbagliare, qua mi dice 15 kWh. 15 kWh perché cosa, per un giorno? Un negativo, qua mi dà... Allora, lettura... Consumi fatturati, qua mi dice consumi fatturati. E mi dice 15 kWh. Un appartamento normale viaggia attorno ai 200 mensili. Io sono attorno ai 340. 15 mi sembra il consumo di un frigorifero. Eccolo qua, aspetta un attimino, però questa è del mare, quindi non fa testo, perché l'ho messa anche al mare. Non fa testo, vediamo se c'è quella dell'appartamento di Sassari, perché ne ho parecchie. Ieri le stavo guardando, le ho un po' confuse. Ecco qua, scusami, trovata. Allora, 212 kWh. Perfetto, 212 al mese, cioè per che periodo sono inquadrati in termini di giorni, cos'è un bimestre, un trimestre? Attivo, periodo di riferimento luglio-agosto 2011. Luglio-agosto, quindi è un, un, un bimestre. In un bimestre quanto? Metto di kilowatt 200? 112. 112. Vivo 22, 212, 212. Attenzione, brezzo, brezzo. Registrato il brezzo. Stavo dicendo? Ok, registrato, un attimo, vi rilanciamo subito. Quindi 212 per 212 hanno fatturato quanto? 30 euro. 30. Ok, quindi a questo punto possiamo fare, siccome i 30 sono già in la compresa, giusto? KK, è totale bolletta. 30, l'IVA è al 10%, quindi scorporando l'IVA vediamo a quanto è che te la stanno facendo a kilowattora. Su consumo presunto o su consumo effettivo? Consumo, credo che sia consumo effettivo, credo, perché ho visto che c'è una variazione, se fosse stato un consumo presunto non ci sarebbe stata variazione da una bolletta all'altra. Comunque poi mi dice totale servizi di vendita 18,75, totale servizi di rete 8,56, imponibile 27, IVA 2,73, non soggetti, vabbè, meno 0,04, totale 30 euro. Ok, ok, penso proprio che lo vado a vedere nel sito. Ok, grazie Antonio, avanti il break, buonasera Salvatore, in compagnia di Antonio Grande. Ciao Salvatore, buonasera, ciao Claude, Sandro qua, coordinati a Sentino, se mi potete dare un vostro giudizio, un controllo. Qua da Genova stai arrivando Santiago 9 e 10, Radio 5. Ritarmi un controllo, un passaggio, sa perché non stavo guardando. Ok, Salvatore, vedi un attimino, prova radio. Ok, Radio 5, chiarissima, si capisce bene, segnale sei un 9, modulato sei un 9,5, apportante muta sei circa meno di 8. Ok, va bene, niente, non sono al mio QTH, quindi stavo facendo una piccola prova. Va bene signori, dai, vi lascio al vostro corso e ci risentiamo. Se mi ricambi il controllo, visto che è un pezzetto che non lo chiedo perché la radio non l'ho accesa ultimamente, se mi fai un controllo un pochettino da quelle coordinate, guarda un pochettino, ti ringrazio, grazie. Ok, Sabato, il rapporto per te Santiago di Otto, una radio buona, chiara almeno, non ho QRM, non so niente, almeno da queste coordinate in cui mi trovo adesso. Perfetto. Ti ringrazio. Antonio, vai, riprendi per tu per Sandro. Sandro, ben sentito, non ho capito se stai facendo QRX o QRT, comunque stai arrivando una bomba, dai, 7351 e ci risentiamo alle prossime, se no stai rimanendo in ruota. Salvatore, se vuoi ti lascio anche l'indirizzo del sito, il numero di servizio clienti e l'email del servizio clienti. Rimani in ruota? Salvatore, dai, sono qua che nascolto, lo sto mettendo un attimino in sesto, diciamo, questa postazione qua, dai. Perfetto, ok, entra quando vuoi, non ci sono problemi, lo sai. Va bene, ascolta, Anto, mi hanno dato il disegno .it, quello? Attivo, ripeti. Edison.it. Negativo è www.edisonenergia, tutto attaccato, quindi www.edisonenergia.it. Numero di servizio clienti è 800 031 141. mentre invece l'email è molto semplice, è servizio clienti, tutto attaccato, @mailedison.it. Perché guarda, lo scherzo che mi hanno fatto questi qua è stato pesante, troppo, perché poi sono in difficoltà. E, tra l'altro si sono smarriti il mio modulo del RID, cose allucinanti hanno fatto, guarda, dire incapaci è poco. Ma guarda, sono tutti bravi e tutti capaci quando vai a fare l'allaccio, quando ti stai affiliando alla cosa. E se i migliori li mettono lì, a quel servizio lì, dopodiché ti danno già un altro numero quando hai problemi, e questo, quando sei già il loro cliente, questo già ti deve far sospettare, perché iniziano a risponderti dopo un quarto d'ora, o parli con persone incapaci e a volte sono anche strafottenti. E così sono tutti, ma qualsiasi tipo di servizio, dalla telefonia alle compagnie dell'energia elettrica. E purtroppo ve le sto accorgendo. A me per l'ennesima volta, poi l'ultima è stata fantastica, perché poi mi hanno chiuso il telefono in faccia ed ero talmente affuttato che con mia moglie siamo andati poi dai carabinieri per sporgere denuncia, perché comunque era frutto di un loro sbaglio la riduzione di potenza. E la ciliegina sulla torta è stata che siamo arrivati lì, che erano circa le 8:15, e ci hanno detto che l'orario per le denunce era 8:30, 18:30. Capito. Vabbè, comunque il primo è interruzione di pubblico servizio e poi esporre denuncia, ma secondo dove vai ci rimane ancora più male quando vai a denunciare la cosa. Io ricordo una volta, e non dico qual è il corpo, qual è l'arma, un amico gli avevano rubato il giubbotto in discoteca, con dentro il portafoglio e i documenti, quindi lui stava andando a denunciare il fatto che gli avessero rubato il portafoglio con i documenti dentro, e l'ha detto. E a un certo punto, alla fine della cosa, dice: mi scusi, ma io la devo identificare, ha un documento. Tipo dice che è rimasto così, dice: ma scusi, se sono venuto qua a denunciare perché me l'hanno rubato. E dice: ma senza documento non si può fare niente. Ah. Fantastico. La stessa cosa, la stessa osservazione che ho cercato di far comprendere quanto fosse stupida alla signorina del call center, che mi diceva: ma signore, gli abbiamo mandato 3 solleciti e lui non l'ha pagata. Ho detto: certo, voi me ne potevate mandare anche 300 di solleciti, ma se l'indirizzo è sbagliato, in quell'indirizzo non prenderà mai la posta il sottoscritto. Poi sono anche tonti, perché dico: innanzitutto lo mandi tramite raccomandata, ma nel momento in cui vedi che non risponde, la prima cosa che fai è mandarla nel luogo dove stai fornendo la fornitura, scusami il gioco di parole. È la cosa più logica, no? Perché puoi pensare che comunque la persona si sia spostata in un modo o nell'altro, sia lì residente o si sia comunque spostato per più del periodo estivo, comunque di un periodo di vacanze, che di solito succede in quel periodo lì, questi inconvenienti. Pensa che luogo della fornitura X, nome stampillato e indirizzo di chi stampillato nel bollettino X, indirizzo della fattura Y. Sì, ma questo non vuole essere classisti, però se avessero saputo fare, se fossero stati intelligenti, li avrebbero messi da qualche altra parte, capito? Invece quello che ti dà fastidio è che la maggior parte di questi numeri, fra l'altro, sono a pagamento dal cellulare, perché da rete fissa, sapendo che comunque non telefona nessuno, perché ormai non ce l'ha più nessuno il telefono di rete fissa a casa o quasi, li chiami dal cellulare. Prima che ti risponda una voce umana passano decenni. Sì. Comunque. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque adesso mi faccio un po' una cultura con Edison Energia e vediamo un pochettino. Appena mi arriva la, la, prossima di fattura, e quindi sono certo che almeno dal punto di vista amministrativo tutte le cose sono rientrate in una giusta logica funzionale. Ce li scappa a quel paese. Posso chiederti una cosa, di media di bolletta quanto fai? Media? Beh, media al bimestre erano circa 160, 170, anche 180. Vale, uguale a quella, alla tua, immaginati che allo stesso periodo io ho pagato 3 anni fa 180 euro, oggi sto pagando 30 euro, e non è frutto esclusivamente della Edison Energia, assolutamente, ma ho fatto un investimento che è stato quello di cambiare tutte le lampadine e di metterle a risparmio energetico con luce calda, e dopodiché avrò speso un 100 e qualcosa euro, però le ho recuperate subito, e dopodiché la spesa migliore che abbia fatto negli ultimi 20 anni è stato comprarmi il pannello termoidraulico, perché ricordati che quella cosa che consuma di più è il boiler. Lo so, è una cosa che noi abbiamo già messo in conto di fare appena però potremo farla, perché per ora non abbiamo titoli nella parte sovrastante, e quindi non ci sono altri spazi dove poterlo mettere, ma è una cosa che abbiamo già in programma, assolutamente. Quando l'ho staccato io il pannello, perché tu devi sapere che il pannello solare è comunque il pannello solare termoidraulico, ha sopra il boiler, perché nel momento in cui non ce la fa comunque a darti l'acqua con una certa gradazione, c'è il boiler con la resistenza dentro. Fatto sta che comunque, anche se non ce la fa, fa entrare l'acqua all'interno del boiler minimo a 18-20 gradi, anche nelle giornate più fredde. Fatto sta che io ho staccato il pannello, cioè il pannello, il boiler del pannello, a marzo, e ancora non l'ho attaccato. Proprio io sto continuando ad andare con l'energia del sole. Tu immaginati che quest'estate ha sfiatato per un paio di giorni in seguito, perché aveva superato i 90 gradi. D'altronde, è giusto, perché assorbono, e poi sul metallo, figurati, viene amplificato il trasporto termico. Ma è una cosa che dovremmo fare, assolutamente, noi lo dovremmo fare. Ma guarda, se hai, come si può dire, se hai 800 euro, 900 euro, se te lo metteri tu, se no ti costa intorno ai 1200, poi c'hai un recupero dell'IRPEF, sembra che sia il 36%. 36%, comunque dai, riesci a scaricartene una buona parte, però riesci a recuperarlo con bollette così, come mi stai dicendo, riesci a recuperarlo quasi subito, perché è quello, se tu guardi il boiler, la lucetta della scaldabagno rimane accesa ogni volta che tu ti lavi le mani per un quarto d'ora, moltiplicano per il numero di volte che ti lavi le mani, per la doccia che ti fai ogni giorno, chiaramente moltiplicato il numero dei componenti alla famiglia, alla fine capisci che quei 2000 watt, 1800-2000 watt, kilowattora, tu immaginati quanto rimane attaccato un boiler. Sì, assolutamente, poi noi abbiamo qua un campione, un fatto di sperpero d'acqua, figurati. Beh, sperpero d'acqua poi alla fine è relativo, l'acqua, il metro cubo d'acqua non è che costi molto, ma se tu ti vuoi togliere un gusto spendendo 10 euro, vai da Brickoman, vendono un piccolo contattore dove puoi impostare anche a livello anche biorario il costo del kilowatt, dopodiché lo frapponi fra la presa e la spina dello scaldabagno, e questo qua ti calcola giornalmente i consumi di qualsiasi elettrodomestico, nel caso lo scaldabagno stesso, e capisci quanto giornalmente stai buttando via. Assolutamente sì. quando è stato? Un mesetto fa, oramai. Stavo parlando proprio perché c'è stato un problema in un posto dove c'era una rastrelliera di idraulica che perdeva, e allora stavo facendo questo intervento, stavo parlando con questo ragazzo che è un installatore di appunto di pannelli, e chiacchierando io gli stavo chiedendo un pochettino che performance aveva riscontrato nel mix di installazione pannello con boiler e anche per acqua sanitaria da inviare alla caldaia, quindi per il riscaldamento, in modo tale da avere un pre-riscaldamento e quindi far arrivare un'acqua già a una certa temperatura piuttosto che i classici 12 gradi, 10 gradi, quanto può essere anche in questo periodo. Ebbene, lui mi ha detto che assolutamente sì, è stato ha riscontrato in tutte le installazioni che ha fatto, compresa quella di casa sua, un immenso risparmio anche nell'utilizzo combinato con il pre-riscaldamento in caldaia dell'acqua. Assolutamente, ti ripeto, sono cose, guarda, sono investimenti che ne vedi la resa in pochi mesi dopo che li hai installati. Io sono contentissimo di averlo fatto. Parti dal presupposto anche che io ho una certa passione per le energie rinnovabili, quindi comunque sto facendo andare la mia macchina con un combustibile particolare, cioè tutta una serie di cose. Tu immaginati che fino a pochi mesi fa avevo una turbina eolica sul tetto. Che fine ha fatto? Dirti la verità, mi dava fastidio la notte. Io ho un mini pannello fotovoltaico che però non accumula, ma utilizzo direttamente la corrente perché ha un inverter particolare. Poi avevo questa avevo un mini eolico autocostruito, ottenuto dalla conversione di un... Quanto è caduto? Aspetta, ti sei perso la metà che non stavo schiacciando bene. Dicendo, ho convertito appunto un motore d'autoclave, l'avevo accoppiato con dei magneti permanenti e avevo fatto un mini generatore da 400-500 watt. Però il problema è che la notte faceva rumore, le pale facevano rumore girando col vento. Ma a basso, a rotazione orizzontale o su asse verticale? Cioè la disposizione delle pale messe nel modo tradizionale oppure tipo quella della roba tech sull'asse verticale? No, orizzontale, classica, diciamo, dai, aveva tre pale, ma se vai su, vabbè, tu Facebook non ce l'hai, comunque ci sono anche le foto della cosa. Hai visto il progetto invece della Robatec che sta andando di lusso anche in installazioni estreme, installate sulla rotazione, ce l'hanno sull'asse verticale? Ma quello lì si può ottenere prendendo dei tubi per colonna montante, dopodiché li tagli chiaramente per l'asse verticale, quindi ottieni due conchiglie, queste due conchiglie le accoppi su un lato e dopodiché le metti sull'asse motore, diciamo, del generatore. Quindi da una parte il vento scivola, dall'altra invece trova la parte convessa, quindi gli dà la spinta e gira verticalmente. Vabbè, loro hanno costruito proprio dei rettangoli con un profilo a goccia, proprio per fare questa sorta di effetto, ma le performance sono pazzesche, anche perché non ci sono le perdite di tempo nell'allineamento alla giusta direzione del vento, né tantomeno le per Cannabis, questo chiaramente stiamo parlando di prodotti commerciali, non del, di un qualcosa di autocostruito come nel tuo caso, però sono delle performance pazzesche. Non so se hai mai avuto modo di vederli, gli aerogeneratori del Ropatec. Ma ce n'è uno vicino a dove avete lo studio voi, vicino relativamente, dietro Porcellana, l'ho visto da poco, adesso non mi ricordo chi era il professionista che si è messo questa cosa, questa specie di... Io pensavo fosse una cosa pubblicitaria, invece avevo letto appunto Ropatec, che credo che tra l'altro gli si sia danneggiato un po' di tempo fa quando c'è stata quella tromba d'aria, hai capito? In via dove c'è l'Angelicum, quasi tu vai spesso in cosa, in piazza Cotti del lavoro, quindi l'avrei visto. Papà, lo vediamo dalle nostre finestre ogni giorno. Lo studio di Piccinini, l'oculista, lui ha un 3 kW, ma il primissimo modello. Adesso fanno, immaginati di quel modello, immaginati la metà con di altezza, con i pannelli che sono di forse un terzo, quindi impatto visivo di gran lunga inferiore, miglioramento delle performance in quanto non è una sola diciamo ala che ruota, ma sfruttando diciamo un po' l'idea che stavi esprimendo tu del braccio, no? Ecco, a tre bracci con tre ale a forma di goccia, performance pazzesche, silenziosità e soprattutto ottimo bilanciamento, perché avrei infatti notato che quello là è mastodontico e la spinta noi la vediamo è notevole in tutta quanta quella superficie per poi produrre 3 kW. Infatti tutte le performance migliorano tutte con le seconde generazioni, dove hanno adesso sollevato anche chiaramente i kilowattora prodotti. Ma poi quel profilo lì che tu chiami a goccia è il profilo dell'ala degli aerei? Aerodinamicamente è quella, poi lo stesso concetto fisico, che adesso non so esprimere perché è ignorante in materia, però dovrebbe essere quello, rispettando i filetti fluidi, se non sbaglio, che a un certo punto vanno in decompressione. Esatto. Sì, no, ho visto. Tra l'altro, no, il problema lo sai che cos'è? La rumorosità notturna, perché di notte qualsiasi cosa, essendoci silenzio, viene amplificata, quindi rischi che poi i vicini ti facciano l'applauso in faccia. Però guarda, ti dirò la rotazione dell'asse sull'asse verticale è praticamente nulla rispetto alla rotazione delle spalle, perché io ho avuto modo anche recentemente, quando stavo installando quella famosa parabola, quell'impianto satellitare bidirezionale per un collega, che ha anche un aerogeneratore, diciamo modello tradizionale, un tripala da 5 kW mi sembra, e fa un rumore, si sente proprio il flat, ogni volta che gira si sente, poi si sente tantissimo la vibrazione che viene trasmessa all'albero, è una cosa incredibile. Ma tra questi su asse verticale, molto più silenziosi. Però rendono molto di meno, Guardati, a proposito di energie rinnovabili, se ti interessa, questo sito è molto molto interessante. Fra l'altro tu sei ingegnere, ricordami, ingegnere? No, non sono ingegnere, sono un perito industriale. Industriale, comunque, ancora meglio. Guardati questo sito www.progettomeg, come lo sto pronunciando, .it. Lo troverai molto interessante. Comunque il discorso dell'asse verticale è un salvaspazio sostanzialmente, Anto. È un salvaspazio. Si presta ad essere montato in posti dove non vai ad impegnare in altezza molta superficie. Le pale sull'asse orizzontale chiaramente ti impegnano molto molto di più. Indubbiamente, indubbiamente, ma sì, sicuramente c'è un po' meno resa, però fra l'altro poi, guarda, è lo stesso problema che ho avuto io con l'asse orizzontale, nel senso che il rumore e il palo di sostegno che tendeva a far sì che le vibrazioni si sentissero anche nell'appartamento di sotto, faceva proprio effetto campana. Comunque una turbina eolica la stanno vendendo su eBay a 299 euro, una turbina con un generatore da 400 watt. Peccato. No, ma io quando noi riusciremo, perché prima o poi ce la dovremo fare, a metterci d'accordo, una cosa del genere io la monterò. La monterò. Pensa che solo facendo una considerazione della pannellatura, ad esempio c'è un collega che nella proprio nel proprio petto del deposito del trattore che c'ha in azienda, ha speso circa 80 metri quadri, dovrebbero essere di pannellatura, e ha una buona esposizione, e pensa però già con i soldi che gli stanno arrivando dalla produzione di chiudere di arrivare al break even già all'ottavo anno. Oh, cava cava, aspetta un attimino che faccio una chiamata, perché c'era Gianni Doppio Rumpf che doveva rientrare forse. Attenzione Gianni, e io sto ascoltando da 3 ore. Stai ascoltando, però non fai chiamata, capito? Orecchie pelose. Vieni avanti. No, buonasera. No, stavo ascoltando un discorso che mi interessava. E basta, tutto lì. Non volevo interferire, visto che stavate facendo un discorso, diciamo, approfondito sui pannelli, per queste cose qua, stavo ascoltando e zitto. Già, ma sei anche troppo, No, è che a volte non mi piace interferire e disturbare quando si sta facendo un certo tipo di discorso, anche perché io ti dico la verità, non è che sia un grande intenditore di questi pannelli solari e cose del genere, quindi non posso entrare in mezzo. Ti posso garantire che neanche io sono assolutamente un esperto, sono più che altro molto curioso, ecco, la cosa mi ha sempre affascinato, mi aveva molto affascinato quando, ad esempio, qualche anno fa era stato portato avanti e pubblicizzato quello che era stato un grande successo, sempre della serie che nessuno è profeta in patria, di un sassarese che aveva in sostanza realizzato una turbina d'asse verticale, dove però, a differenza di questa della Ropatec, in pratica aveva messo due, era come se fossero due rotazioni che erano esattamente una opposta all'altra, ma che faceva sì di ulteriore spinta nell'asse, e quindi una produzione ancora maggiore di corrente. Giusto perché ti capitano sotto il naso queste cose, e allora la curiosità poi fa il resto e ti vai un po' a documentare. A me aveva ad esempio colpito tantissimo una di queste turbine montate a Punta del Brunner, quindi a 3800 metri, ricoperta qualche quanta di neve e quant'altro, che però era lì bella, che gira per dare corrente ai rifugi. Era, scusate se vi interrompo, si chiama professor Loriga, questo qua, che è un inventore sassarese, adesso sta riprendendo, cercando di ricostruire il motore a magneti permanenti di Tesla, che dovrebbe in qualche modo proporre il moto perpetuo, ma ha già avuto una serie di fallimenti, perché il moto perpetuo, sai, mi viene, che non esiste e non esisterà mai. Se tu cerchi su YouTube Loriga inventore, ti esce il servizio che avevano dato su Rai 3 di questo sassarese. Sono andato a trovarlo da poco, guarda, ha una specie di banchetto alle officine Preti e lo trovi lì, che ti dà 2000 spiegazioni, ti mangia la testa e ti dà 2000 spiegazioni sul progetto che sta portando avanti. Grazie. Siete premiato, cioè, quindi evidentemente comunque riuscito a mettere in pratica delle buone tecniche e delle teorie. Assolutamente sì, lui ha all'attivo una ventina di brevetti, non ultimo questa specie di pannello solare dove ha utilizzato poi l'uovo di Colombo, una cosa abbastanza logica, però bisogna anche arrivarci. Delle lenti, come degli, non degli specchi austori, però delle lenti di ingrandimento che vanno a duplicare o quadruplicare anche la potenza sia dei pannelli solari che quelli termoidraulici, quindi sia fotovoltaici che termoidraulici, perché hanno proprio delle lenti di ingrandimento davanti. Certo, giusto. Questa bicchierette. Ma in fin dei conti poi anche dalle piccole cose che vengono costruite grandi cose e grandi fortune. Ma quello che l'invenzione che hai visto tu, quella specie di turbina su verticale, che poi altro non era che una sfera che girava, metà della sfera, l'emisfera superiore girava in un senso e quella inferiore girava nell'altro senso, per poter prendere comunque il vento e dare una spinta maggiore. L'ho vista e riprende vagamente quelli che sono i cappelletti che si trovano sopra i comignoli per evitare che entri l'acqua, e allo stesso tempo quando c'è l'aria calda li spinge da sotto, tendono a fare quasi da aspiratore perché girano in modo concentrico, soprattutto quando c'è il vento che colpisce. Ora che mi hai fatto il richiamo alla al cappuccio dei conignoli, è vero, ora mi ricordo anche il disegno, la foto, cosa diavolo era che vidi a suo tempo. Sì. E beh, comunque sull'asse verticale stesso principio di quelli della roba tech. Vabbè, così è. Carissimo Gianni, io vi saluto. Adesso mi sono già trasturato alla radio per un po', ora voglio rilassarmi e guardo il secondo tempo della partita. Se mi scusate, io vi saluto e vi auguro buon proseguimento. Ne approfitto. Mi prendi a tutti per Gianni. Ma grazie per il QSO 7351 e buona partita, dai, buon QRT quando lo farai e buon 144 per stanotte. ci sentiamo alle prossime, Salvatore. Grazie ancora. Riprendi Gianni, anche per me un attimino di QRX, perché sto finendo di fare carica batterie, ne approfitto anch'io un attimo. Avanti Gianni. Ah, sei andato a fare con comodo, divertiti, e noi siamo qua, se vuoi rientrare poi siamo. Ciao, Gatta Globe, buon QRX, intanto mi immagino che non vi interessi, quindi chiudo tutto quanto, le trasmissioni, perché so già che ti tratterrai alla lunga. Sei perfido e cattivo, perfido e cattivo, perfido e cattivo. Non è solo imparato a conoscerti. Ok, riprendo io. Grazie a voi per la chiacchierata. Ciao, ci sentiamo alle prossime QRX, per me, arrivederci. Ciao, ciao Salvatore, buona visione. Avanti, Globe, di nuovo. Cosa mi stavi dicendo? Che ho imparato a conoscerti e basta. Perfido e cattivo. Mi stavo dicendo, no, a parte gli scherzi, devo ancora mangiare. Ho mangiato due castagne e c'ho un buco nello stomaco. Dai, riprendo dopo, intanto è presto ancora. Ci sarà parecchia gente sicuramente in ascolto, come dovevi tu. Vediamo un attimino, faccio la chiamata prima di andare via. Attenzione sul 10, se c'è qualcuno in ascolto che vuole entrare, cambio. Fa Roger, qua Sbella sta provando la sua nuova stazione. Ditemi un po' com'è il segnale. Buonasera Sbella, qui la vedi abbastanza bene, a che zona stai modulando? Via Rockefeller, presso via l'Italia. Quindi sei vicino al Grudino. Certo, ma la terza tarula sta già alla stazione. Dovevamo provare la nuova antenna. Va benissimo, dai, qua va bene, tranquillamente bene. Quella è una Ringo, vero? Come sta a fare Roger, una Ringo? Perché ieri non so se c'era un po' di disturbo, comunque non si sentiva niente. Ieri c'era un po' di QRM, però nel suo caso non è una Ringo, è una Rinco. Comunque ben sentito Sbello, ben sentito, ben ascoltato e super cordializzato dalla stazione Grode Modulatore Antonio. Gambio, gambio. E dite anche a voi naturalmente. Io avevo appena acceso nel momento in cui avete detto chi si vuole inserire, si inserisca, quindi ne ho approfittato. Fatto bene, ascolta, come ci ascolti, contraccambio un attimino per quanto riguarda, visto che non hai lo smitter, il controllo radio, la qualità della radio, come ti va arrivando? Ultimamente io mi sento proprio come se foste qua, con un po' di disturbi, un minimo, però bene, contento, sono contento. Lieto. Sono lieto di tutto ciò perché vuol dire che l'antenna l'abbiamo piazzata bene, poche stazionarie perché 1 e 2 per la Rinco sono ottimali e quindi niente, adesso mettiamoci nella condizione di piazzare un'altra stazione e dopodiché ripopoliamo la frequenza. Avanti Gianni. Questa volta femminile però. Sì, c'è Lolli che aspetta una stazione, quindi un'antenna ce l'abbiamo già, un baracchino lo stiamo procurando e niente, ricolmeremo e rinfoltiremo la frequenza di Greco L. Magari, non so che farmi piacere, fa solo piacere sentire le voci femminili. Avanti di nuovo, come si chiama? Bella. K, operatore Edoardo, se ti ricordi meglio. Cosa volevo dirvi? Che Lolli molto probabilmente cambierà il nome di battaglia, perché non era soddisfatta di questo nomignolo, quindi ci sta pensando. Poi si accettano suggerimenti naturalmente, io glieli proporrò e lei sceglierà. Guarda, basterà che la senta il Gigi Vulcano, detto il bassista, che sicuramente saprà trovargli il nominativo e non il nomignolo, come hai detto tu, in men che non si dica. Confermi Gianni? Sì, confermo. Tutti siamo in grado di farlo. Beh, capo, in grado, però ci vuole la giusta fantasia, visto che voi siete uomini d'esperienza, il baracchino chiede aiuto, l'aiutino a casa. Dimmi una cosa, per quanto io spui, l'illuminativo è una cosa che uno si deve scegliere, però nell'indecisione è bene che ti diano comunque delle idee. Sberla, non mi hai detto come sei messo per domani mattina? Niente, io mi libero presto, per quanto riguarda Lolli non ho idea, visto che e in uscita notturna con la greffa di amichette. Quindi dipende dal grado di cottura che raggiungerà stanotte, e vediamo domani a che ora si sveglia e in che condizioni. Bello, della propria 25 così è esaltante quasi, chiaramente scherzo, però va bene, non c'è problema, ti ripeto, senza impegno, perché intanto abbiamo prenotato a tuo nome, quindi non c'è problema, se anche dovessimo smettere vengono a cercare te. Giustamente, come sempre lo dire a te il mio nome, anche McCherry faceva così, quindi sono abituato ad esporgli, no? Ci sono problemi, più che altro domani speriamo che non scenda al cielo, Ma dovrebbe, questo McCherry mi ha fatto ridere. Se vuoi ti leggo anche il menù, che non è piaciuto al genere doppio Roma, perché lui è un carnivoro, capito? Anche io lo so, Hai visto la graviglia qua, può solo girare, per quanto ti dico che se ne dovesse scendere il cielo e non avessimo voglia di non avessimo voglia di andare lì, qua ci sono due vassoi di carne che Pollicina aveva acquistato per in previsione del pranzo di ieri. Ci potremmo far girare un po' di pancetta e un po' di capocollo. Io ho preso del vino rosso, ho preso della vodka, ho preso non so cos'altro di liquore, birra a volontà, questo è sempre per gli amici, e nel caso sono pronto, ho anche la pentolina bucata per le castagne. Bella è la parte alcolica. Bella non è per la parte alcolica, perché lo corichi con un bicchiere di birra, però diciamo che ha la qualità di presentarsi, la qualità ormai rara, di presentarsi a casa degli altri bussando con i piedi, che non è mai, cioè non è, mai, è sempre gradito questa cosa. Ma ti ripeto, è da un po' di tempo che posso dirlo, che alcuni amici che frequentano questa casa ogni tanto si presentano, ma poi sono sempre gli stessi, è scherzo, ci mancherebbe, però siccome poi alcuni di questi hanno anche la brutta abitudine di criticare quello che mangiano, allora tu la prima cosa che fai dici, ma vediamo un attimino cosa hai portato tu. E si scopre che per giorni e giorni queste persone sono presentate sempre a mani vuote. Vorrei puntualizzare una cosa, se posso. Di Sberla assolutamente no, anzi, è il migliore degli ospiti, tranne quando si mette a pasticciare le lavagne magnetiche. Le mie opere sulla lavagna magnetica però rimarranno negli annali. Volevo ricordare che la persona in questione, che non porta mai niente, è vero, perché io lo posso difendere, una volta ha portato non so quanti viewsel e se li ha tutti mangiati lui. Sì, erano panini, ne ha portato una, due a testa e lui se ne ha mangiato tre, però, capito? E ne ha lasciato una persona assente. A prescindere da questa, da questo, le poi non so, non entrano negli annuali, ma negli anali, visto le tutterie che fai con la lavagna. Devo dire, perché non siamo più in fascia protetta, Gambio. Comunque ce ne sono che addirittura non so di non portare la roba, però qui mi piace la mia cura di una, due o tre persone che non conoscere a me. Portato lui perché non mangiava lo zimino, mi ha fatto abbassare, sapete quando c'hai proprio il fuoco bello allegro? Beh, morale, gli ho dovuto mettere questi quattro viewster cagatti, finché non glielo ho fatti non si è spostato, morale, cioè, mi aveva già abbassato il fuoco, capito? Questo lo zimino vuole allegro, non ti vuole fuoco molto lento, vuole un po' allegro, cucinare bene. Soprattutto perché poi lo zimino tende a spegnere il fuoco, capito? Perché un po' perde l'acqua che hai utilizzato per lavarlo, un po' il grasso, che comunque ce n'è parecchio, e lo devi, io utilizzo il phon per riaccenderlo ogni tanto, capito? Sì, ma il grasso lo alimenta il fuoco, non lo spegne. tu noti quando fa la pancetta, si fa la fiamma, quando si fa la fiamma c'è fatta buttare un po' di sale sopra, ti lascia il fuoco acceso se dà fiamma. Questo dell'alimentare il fuoco sì, sicuramente, però se mista l'acqua che è lavata, quando l'asciughi comunque nei ricciolini ne rimane, capito? E anche se c'è un po' di bile, un po' di coso, comunque tende a spegnertelo. Quello del sale sì, lo utilizzo quasi sempre, ma poi basta rigirarla leggermente la braccia e il grasso va sotto e non accende più. Dovresti farti il barbecue come l'abbiamo fatto al Ciso, l'ha fatto un inventore pazzo che ce l'ha lì. Ha fatto un barbecue enorme, con una praticamente ha fatto da una mezza tamburlana, ha fatto il barbecue, che anche gli ha salvato due cricche di macchina. E quando dovevi alzare la graticola tu non facevi altro che girare i click insieme, chiaramente gli ha fatto un congegno che o lo giravi, o li giravi tutti e due con due persone oppure col congegno che c'aveva, ti faceva girare assieme e ti alzavano la graticola senza fare nessuna sorta, senza bruciare. Però già, il tempo che ci vuole a fare quell'escursione un click, se ti prende fuoco il grasso del coso, della pancetta che cola, a quando è alzato, ha bruciato tutto quanto. Non doveva essere come inventore, bravo, ma buona idea, però la pratica non so quanto fosse pratica. No, no, c'era pratico, perché l'abbiamo provato e funzionava bene. Addirittura potevi arrostire anche un bel roba, perché era grande la graticola, tutta fatta da lui, saldata da lui, preso il ferro, lui ha fatto una cosa vecchia che ci aveva fatto questa grande graticola, una l'ha fatta a quelli di fronte al circolo che c'è di fronte del comune e le l'ha venduta a 300 euro. E la sberla invece come l'ho fatta io, il barbecue. Come l'hai fatto, nel senso come è venuta la carne o come hai fatto strutturalmente il tuo barbecue? Tutte e due, tutte e due, mancami, vai tigre, uccidi. Allora, intanto la fervida mente del Grode, che poi è una cosa che si usa molto a Sassari, ha utilizzato un vecchio scaldabagno, quindi per creare un barbecue professional col coperchio. E poi per quanto riguarda invece la cottura della carne, devo dire ottima, croccante fuori, su cosa dentro, 10 a lode. Comunque guarda che a Sassari si utilizza soprattutto, ma non utilizzano lo scaldabagno assolutamente, utilizzano il cestello della lavatrice e un caldo. Per le castagne però. No, anche per fare, ha ragione grossa. Usano quello e la tamburana tagliata in due. Ma quello del cestello della lavatrice, io ho un'amica che dice che la lavatrice vecchia è come il maiale, non si butta via niente, perché ti ripeto, dall'oblò puoi fare un'insalatiera, perché il vetro è un vetro a termico che può andare in T-Rex, che può andare anche dentro il forno microonde. Col motore della lavatrice ci puoi fare, se tu guardi su internet c'è una sottocultura dove ti danno 2000 progetti per fare dal tagliaerba a un elevatore, 2000 cose si possono fare col motore. Dopodiché ci sono tutta la schiera di regolatori di corrente che c'è sul quadro frontale, si possono lo stesso utilizzare per regolare luci, per regolare motori a spazio e tutta un'altra serie di cose. Il cestello serve per fare il barbecue, la carcassa per farti un bel mobiletto da tenere nel soggiorno, quello buono. Questa tua amica che ricicla tutto abita in un campo rom? No, diciamo che lui è un rom e quindi magari la conosce per quello. Ah. Noi sì, ui. No, a parte gli scherzi, l'unica cosa poi alla fine è la carcassa che non te ne va in nuda. Se la prendi la devi lanciare la vita a fianco al cassonetto. Il motore, un amico ci aveva fatto tutto per la fila col tempo. Praticamente si è aveva attaccato la pietra, quella circolare, quella che è, e affilava il coltello con quello lì. È vero, ma tu immaginati, a proposito di Rom, sai cosa fanno? Tu immaginati quante lavatrici ci sono buttate lì al centro ecologico, su in via, cioè via Prati, come si chiama la via dove c'è la stazione ecologica del Monte. Comunque, fatto sta che lì vanno gli zingari, tirano via i motori delle lavatrici, li spaccano con una mazzetta e si prendono il rame, che poi rivendono a gente come Marchizzo, capito? Perché li fanno entrare? Sì, assolutamente sì. Non so per quale legge comunale, comunque hanno accesso e sono sempre lì. Ogni volta che vai è pieno di questi mania nera. Capito? Ma sai cosa gli ha fatto questo zingaro, un'amica? Era fermato al semaforo, stava chiedendo l'elemosina, cioè lì stava aspettando il semaforo, questa zingara stava chiedendo l'elemosina e lì praticamente aveva il finestrino aperto, gli ha chiesto i soldi, non ne ha voluto dare, lei non ne ha dato, si è girato la faccia, ha preso questa zingara, l'ha sputtata in faccia e se ne è scappato. E io sarei stato tutto il giorno, tutti i giorni a cercare la zingarella, guarda. Ce n'è una strafottente che sta in via Enrico De Nicola, all'angolo con via l'Italia. Via Enrico De Nicola qual è? Quella della facoltà agraria? Sì. Via Enrico De Nicola, angolo via l'Italia, e forse è quella che stai dicendo tu, eh? Che questa camera è sicura, sempre finestrine, no? Capisce? Guarda, c'è schifo con lo sputo, ma poi dato da una zingara ancora peggio. Ma a proposito di sputi, una volta era successo superando una macchina in moto, proprio c'avevo il casco aperto, prende questo qua e tira uno scarraccio dal finestrino, mi piglia in pieno, ma sai cosa vuol dire in piena faccia, cazzo? Una cosa stavo per buttare. Che schifo, cazzo, e non è piccinito. Parlo di Rubi Sigheggi, c'è la parte che ti ripeto, stava correndo più di me, ma non cosa fai? Non l'ha fatto sinceramente apposta, però madonna, cioè ho rallentato per pulirmi la faccia, altro che raggiungere a lui. Una volta è successo un amico mio, ha affacciato al finestrino dal treno, stavamo andando a Facciucci da Cagliari il treno. E c'era questa greffa di ragazzi, una di quali ha sputato e è arrivato lo sputo a questo amico in faccia. Sai che prima si è pulito, poi è andato e ha detto, dov'è? Ma da che la faccia, vedi, la lavata stamani, non aveva bisogno che me la lavavi, gliel'ha detto ridendo, però cazzo, cioè. Quindi ha detto, scusami qua, non me ne sono accorto, e vabbè, la prossima volta se la tocca, quando è farsi la finestrina. E poi rientra dentro dal finestrino che segue, capito? Avanti, sberla, ma oggi sei con prole? Scusate, stavo preparando la minestrina per il bambino. O dorme, ma là si vuole mangiare. Guarda, allora mi hai implicitamente risposto, assolutamente. Con prole, prole. Cosa stai facendo col formaggino mio? A me è la classica minestrina, qualche pezzetto. Aspetta. Ecco, vedi, mio figlio vuole fare un altro po' la lotta. Prima però glielo da mangiare, se no lo so troppo forte. Si butta da voi, capito? Fallo mangiare, fagli mangiare la minestrina e poi fate la lotta. E così ti fai i divani nuovi. Ui, riprendi Gianni. Sono piccolini. Gaffa, allora ne ho uno di 7 e uno di 5. 17. Brava, quello che stava parlando adesso ne ha 17, no? Vedo. Cosa 17? 7, 7 e 5. Che guasto, se anche non ha niente di dovrà vuol dire che non ha bambino di 17 anni. Padre ne ha, quanti anni hai Edoa? 20, 26. 34. Capito. Perché bisogna leggere la cosa, come si dice, le indicazioni su quella scatoletta blu. Io già le ho lette, non le ha lette lì però. Quanto sei mortificante stasera tu? Sei cattivo, scusa, non ho sentito. Cosa è che impedisco di cucinare, se no qua si fa tardi e questo non mangia. Giulio, vieni avanti, perdonami, non ti ho copiato. Dicevo che impedisco di dare da mangiare, per preparare, non è dato. se no si fa troppo tardi. Ciao Giulio, ho sentito. Poi grotte grotte, località, ma se ne può fare il gas dell'ana, io sono zitti. Dei due mancomari, comunque ben sentito Sberla, ci aggiorniamo fra poco tramite bassa per decidere per domani mattina. 7351, cordialità e al più presto. Avanti Giulio, non ti ho sentito davvero, non ti stavo ridendo per quello che non ho sentito il passaggio. No, ho detto solamente che sia mortificante stasera. Mortificante. Vabbè, ma sai, siccome conosco l'elemento, quindi assolutamente qui, adesso scherzo, conosco la prole della cosa più bella che abbia fatto nella sua vita, assolutamente. Lo so, anch'io sto scherzando, ci mancherebbe. No, ma te l'ho detto per un attimo, lo sputo volante dell'auto, invece lui una volta ha buttato una bottiglia in viale, cioè in viale conduttore, se dietro c'era la polizia, e gli è costato un po' caro quel lancio di bottiglia, quello. Vabbè, quello lì è anche pericoloso, quelle sono cose davvero che odio e che non si fanno assolutamente. E anche lo sputare alla finestrina non è che sia una cosa esattamente da raffinati, soprattutto se è fatta in città, ma a prescindere da quello, dico, guarda sempre chi hai dietro, se proprio devi fare un gesto così, fra virgolette, inconsulto, comunque non da galateo. E il giorno proprio me l'ha beccato perché era d'estate a visiera aperta, quindi mi sono ubigliato in piena faccia. Sai cosa, che a volte ti senti con una moschina in bocca, lo fa. Scommetto che avresti preferito voler trovare qualcosa per te e metterci il piede sopra, magari, anziché ricevere lo sputo in faccia. E mi rispondi. Ma se avessi avuto segno, non è una scelta da doverti fare, rispondi per una scelta. Giulio, allontanati un pochettino dal microfono perché stai uscendo un po' sotto, non si capisce. Non credo proprio bene. Va bene, fa lontano il microfono un pochino, ma non sono sotto. Ma adesso no, era un po' incomprensibile, chiedo conferma Gianni, però adesso ti sento molto meglio, no. No, è una cosa, guarda, che ho avuto l'odore per giorni, ma è una cosa da buttare proprio, per carità. Sì, in effetti avevo il microfono troppo alto. Va bene, Gianni, sopporta che non tu per favore, io rimango qui a venire in ascolto, Ciao tu, scusa se sono entrato così, ma stavo scherzando. Ci sentiamo, ciao già, vi ascolto volentieri comunque, riprendi pure tu. Va Giulio, figurati, è un piacere assolutamente. Il bello della parata è proprio questo, che al parizzare con gli amici al bar, a scambiare quattro chiacchiere e discorsi possono essere seri come devono essere anche quelli un po' da bar. E al contrario del bar non si spende e soprattutto non si beve e non si prendono brutti vizi. No, ma in moto me ne sono capitate parecchie, ma è un classico di chi poi va in moto, dal moschino che ti entra in gola, ma in gola proprio scende fino a dentro, e al pipistrello che mi era arrivato in faccia, al piccione che avevo preso di testa. Posso dire che sono andato anche, diciamo, abbastanza forte in moto. Ah, io sì, no, mai. Una volta ho sentito questo rumore, un uccello, poi si va al casco, non a me. Era successo anche a me, però un pipistrello una volta di notte proprio l'avevo visto, era arrivato sulla visiera di brutto, ma mi sono anche spaventato. Siete andati in sovramodulazione, cioè avevi qualcuno sotto, non capivo se fosse Giulio che riprendeva o se fosse Edoardo. Avanti. Sì, ero io. Ho detto che all'altezza dell'incrocio di Perplata Monas, la 131, un giorno uno con la moto ha ricevuto un moscone nell'occhio e si è messo a piangere come un bambino dal dolore. È capitato anche quello, non un moscone ma lo stesso moschine, ma è da paura proprio, prima che innanzitutto ti devi fermare guidando con un occhio solo, a prescindere da quello davvero sembra che ti abbiano dato un pugno nell'occhio. In caso di capire, a me è capitato il bufone in pancia, è presente quelli che chiamano bufoni, che sono quei camaleonti, come li chiamano, quelli insetti duri, mi sono sbattuto la pancia, ero con un'amica che aveva la plattavola dal mare e eravamo in moto e praticamente come mi sono sbattuto la pancia, io mi sono inchinato dal dolore, mi ha fatto, guarda, una botta nella pancia, proprio un brugolone, una cosa, guarda, allucinante, mi faceva malissimo. Poi mi sono inchinato e mi sono messo all'acqua, come ero al mare, e stavo in casa, si è spaventata, pensava mi stessi sentendo male. Cosa è successo? Cosa è successo? Non ti preoccupare, l'acqua del mare è quella. È che mi ha appunto uno di quei buvuni, guarda, un dolore inconfutabile. Come diceva una cucinetta con l'arco? Una vespa, mi è entrata una vespa dentro la maglietta e prima di riuscire a togliermela mi aveva mitragliato la schiena. Guarda, per me è stato sotto il pantalone, un furgone con questa puntura che sembrava una bruciatura di fiammifero. Ma infatti d'estate conviene sempre, comunque quando si va in moto, portarsi la matita all'ammoniaca, che ti fa passare subito il dolore. No, io come prevenzione uso sempre gli occhiali da sole, poi c'ho anche, diciamo, la visiera che va basso, si sbattono e basta, perché malgrado sia di plastica, copre degli urti, attutisce proprio il corpo e cose da urti fortissime, perché io ho sentito tante volte che si sbatteva bum bum bum, ma proprio fuori, ci andava a piedi. Sì, già è vero, lo so, nella visiera infatti te la smerda ben bene, però io stavo parlando anche della maglietta, nei laterali, soprattutto d'estate, se la maglietta a maniche corte, la polo, comunque ti entrano dentro fra il braccio e la manica stessa e te le ritrovi attaccate alla schiena. Come vai a frenare, la maglietta che si gonfia con l'aria, ti si sgonfia e ti attacca alla schiena e lì inizia a mitragliarti di tutto. Comunque adesso mi hai ricordato, a proposito di insetti che ti si sbattono in moto alla visiera, ricordo che noi avevamo un amico, cioè per prenderlo in giro gli attaccavamo i moschini alla targa, perché dicevamo che andava talmente piano che anche i moschini lo tamponavano, capito? E comunque la moto è bella, ma bisogna anche essere attrezzati. Io dico la verità, se viaggiavo d'inverno, adesso non lo sto più facendo, ma prima proprio viaggiavo anche d'inverno con la pioggia, con tutte, non mi entrava una goccia d'acqua perché c'era tutta l'attrezzatura. E niente, c'avevo addirittura anche sotto casco, che si metteva sotto il casco per non farti vedere il freddo alla gola, ti copriva bene il collo, ed è fatto tipo muta subacquea. Conosco, di solito è in file, ma il sottocasco era una specie di passamontagna di Mephisto, però che aveva gli occhi e la bocca aperta, perché realmente il passamontagna non può occultare il viso, per una legge antiberiatismo del 1975 emanata dal nostro caro presidente Cossiga. Sì, no, tutte quelle cose servono per evitare, come è successo a me, che a 22 anni già avevo il reumatismo alle gambe, la furia di utilizzare la moto, soprattutto d'inverno. Allora io c'ho i pantaloni bocchiti, c'ho gli stivali per l'inverno, tutto quanto, c'avevo tutto quanto, e in più c'ho la tuta antipioggia. La serve, però quella lì la puoi utilizzare, si utilizza soprattutto il coprigambe con la specie di mantella. Quando c'è lo scooter, siccome io avevo allora ho avuto 3 moto da strada e con le moto da strada la gamba sta fuori, stando fuori prendevi di tutto. Quello è vero. Ma diciamo che io col coprigambe non lo metterei mai, perché se sta per strampare va a mettere la gamba in terra, che si inceppa lì è un casino. Lo so, comunque soprattutto in Sardegna, ma soprattutto a Sassari, visto la strada, visto l'asfalto, non è piacevole andare in moto. Io adesso mi sono rimaste 2 moto, fra l'altro una delle quali devo vendere, ed è un 50 e un 125, devo vendere il 50, che è un Kimco People 50, che è nuovissimo, e poi mi hai detto che ce l'avevi avuta anche tu, se non sbaglio, no? Ma io ho avuto il 150. Ma come hai detto bene, hanno tutti lo stesso difetto, nel senso che le lasci un paio di settimane ferme e non accendono più, devi pulirgli il carburatore, è un po' una rottura di palle. Mentre invece, guarda, la Piaggio con Liberty sicuramente è inferiore nelle plastiche, nella meccanica, perché il tipo è la Kimco è una sottomarca Honda, o almeno era una sottomarca Honda, mentre la Piaggio, bello il motore, però le plastiche sono un po' così, lasciano un po' a desiderare. Per la mia la lascio un mese fermo e metto in moto al primo colpo, è una questione di motoristica, ma per la chiave qui io mischiavo anche liquido del radiatore con l'olio, e l'avevo detto da quando era in garanzia, e lui mi ha rimandato un paio di volte fino a quando è scaduto del tutto, e però me l'hanno fatta in garanzia, capito che è fatta. Vabbè, ma perché, scusa, c'aveva il radiatore, 150? C'aveva il radiatore la mia. Mai viste, cioè mai visti gli scooter con radiatorino, perché di solito hanno, cioè da una certa cilindrata in su, soprattutto le moto a strada ce l'hanno il radiatore, ma c'è il radiatore dell'olio e c'è il radiatore anche del coso, dell'acqua, di raffreddamento, ma strano, non l'avevo mai sentito. Tutte ce l'hanno, ma perché la mia, quella che c'è, non ce l'ha il radiatore? Ma la mia con il 125 non ce l'ha, ha la ventola per l'aria forzata, un po' come è sullo stesso concettualmente come era il motore della Vespa, capito? Che aveva la ventola laterale, ti spingeva l'aria forzatamente sul cilindro. No, no, se c'erano tutte quante il radiatore, era proprio il radiatore. Io ci metto anche lì che lo dico, non è che lo sto dicendo così per sentitudine, anche il liquido li ha aggiunto tutto quanto, quindi lo so. Beh, se c'è il radiatore è normale, no? Dopo un po' si consuma e comunque bisogna rabboccarlo. Ma già, dammi 5 minuti che ti ripeto, il fatto che fosse entrato Sberla, perché realmente stavo aspettando lui, perché non avevamo ancora provato a distanza e mi aveva spaventato le sue perplessità in merito al fatto che non stesse ricevendo bene quell'apparato, invece sta andando egregiamente, dai. Io continuo a sostenere che per tirare su una stazione, davvero oggi come oggi, bastano pochi spiccioli, perché il baracchino che ha lui è al pari di quello con cui sto trasmettendo io, sono 60 euro, 30 euro, 40 euro li paghi di antenna, 10 di cavo, 30 di coso, di alimentatore, con 150 euro vai alla grande, anche pagando la concessione, 150, dai. A proposito, fra esattamente 26 giorni bisogna rinnovare la concessione, mi raccomando. 5 minuti di pausa per me, finisco di mangiare e arrivo subito. Papà, vai, sei carica, non la carica. Vedi se c'è rimasto qualcuno. Tutti ascoltando, e nessuno parlando. E vabbè, a dopo. Mi accendo qua il computer, 5 minuti, ci da quando vengo. Ci ho già buttato, a proposito, ci ho già buttato una ventina di euro in quel sito che mi hai dato, ma perché non li dai a qualcun altro questi consigli? Che mi stava prendendo male. Fate una ventina di euro. Quello aspettate, se mi hanno vaccinato. Lo so, ma ti prende, perché a un certo punto ho visto che una tipa ha vinto una EOS 1100, mi sembra, o 1000. Che costava la bellezza di 850 euro, anzi 900 euro, se l'è portata via, mi sembra, 50 euro, 50 e 82. Un altro si è portato via, che cos'era, un televisore a cristalli liquidi da 42 pollici, se non sbaglio, a 2 euro e 92 centesimi, 2 euro e 92 centesimi. Sì, sembrano quasi cose assurde, e poi sono cose nuove, non sono cose sequestrate, magari sequestrate sì, ma da negozi, capito? No, in breve ho capito come funziona, al contrario di eBay, a te sembra che loro guadagnino solamente 2,92 euro, invece guadagnano una barca di soldi, perché poi alla fine tutti i soldi di quelli che hanno puntato comunque loro se li prendono, mentre su eBay se tu partecipi all'asta e non la vinci i soldi non ti vengono portati via, lì è proprio un gioco d'azzardo, capito? Però se riesci a vincere, ho vinto un'asta solamente per quanto riguardava il vincere dei crediti, però ne ho perso un bel perché quel countdown poi ogni volta, cioè, rilanciano di brutto, capito? Prendendo il cronometro, poi non so se avete studiato in modo tale che i cronometri siano diversi, nel senso che hanno un countdown diverso dai 5 al minuto, dai 5 secondi al minuto, e quindi niente, devi stare a controllare più offerte, più aste, più coso, e un po' è lì che alla fine ti distrai e vince chi è meno distratto di te, che ha fatto l'ultima offerta. E comunque ce ne sono cose che qui ce ne sono dei primi anche, delle belle cose. Detto, c'era uno che si è aggiudicato l'iPod che costava un migliaio di euro, se l'ha presa a 80 euro, una cosa del genere. No, ho visto delle cose assurde. No, quella della macchina fotografica, poi stavo partecipando anch'io, a un certo punto ho mollato, mi sono distratto un attimo, boom, e ce l'hai vinta. Io come altri 5 o 6 che eravamo in alta. Comunque dai, rinnovo e ci sentiamo dopo. Giocare troppo, gioca qualche cartata. Senti, hai visto, già ti danno i punti, già dall'inizio, i 2 punti te li danno. E ne vai, però non sai quanti ne butti, se ci sono delle altre che il rilancio sono a 4 punti. Ma a prescindere da quello, vedi, almeno ha di buono questo, che una volta che hai finito i soldi non puoi rilanciare, mentre invece eBay, siccome paghi alla fine, puoi rilanciare finché non, alla fine ti spendi anche quello che non hai. Quindi quantomeno c'è questo di conveniente, questa qua. E vabbè. Vedi tu, valuta. Lo farò. Tu che sei un buon pensante, un risparmiatore. Pulato, direi. Raga, quanto non l'avessi speso stasera, quello che ho speso io? Lumache 10 euro. Lumache 10 euro. Due lumache, 10 euro. Lumache, ma cos'era? Un escargot? Per l'acquario. Quelle che puliscono. Esatto, quelle gialle. Conosci Guffaruffa, mi sta chiedendo qua a Pollicina. Guffaruffa? No, come nome no, dico la verità, ma sono un tipo di pesce. Pesci d'acqua, pesci d'acqua dolce che mangiano dei detriti, sono pesci pulitori. Pulitori ne ho, però c'ho bottia, poi c'ho corridora, o come pulito di gamberetti e le lumache. A dopo un attimo. Appaga, mangia tranquillo. Pollicino, entra qui, guarda. Ciao Gianni, ben sentito, ma devo andare a preparare, ciao. Ciao Pollicino, stavo scherzando. Appaga, vai pure, là. Non lo far mangiare troppo che poi ingrassa. Fa seguire il tuo consiglio prezioso. Che ingrassare è facile, dimagrire è difficile. Aspetta un po', va.